Secondo me il libro fornisce, come è stato detto, un materiale di grandissimo interesse per ricostruire pezzi importanti della storia d'Italia. Ed è materiale documentalmente valido, dietro un lavoro non soltanto di raccolta dati, ma anche di valutazione dei dati, di definizione di ipotesi circa la maggiore o minore credibilità di una strada interpretativa rispetto all'altra. Quindi questo è il punto di partenza e per questo è uno dei libri da leggere, perché sono usciti tanti su queste materie, ma non tutti sono da leggere, se non per vedere e per fare il censimento delle cose non vere che sono state spacciate per vere oppure delle ipotesi affrettate. Ma qui mi sembra che ci muoviamo davvero sul terreno della grande serietà della ricostruzione storica e ci sono anche delle novità. C'è un quadro generale che è quello della funzione del complotto nella costruzione degli scenari storici. Molto spesso ci si deve confrontare tra studiosi con il pregiudizio che la storia non è complotto. Spesso si sente dire questa visione complottata della storia con un certo fastidio, anche con una certa irrisione. E certo la storia non è un complotto, la storia ha dei suoi processi naturali, ha una sua conflittualità interna che produce trasformazioni, cambiamenti, però la storia è anche storia di complotti. Complotti che intervengono per limitarne il corso, per fermarla, per indirizzarla. E mi sembra che giustamente abbia prodotto qualche riferimento alla notte dei tempi e dell'Udis per partire, perché sennò sembra che sia il prodotto delle fantasie scatenate dei tempi in cui per forza bisogna vedere qualche cosa dietro ciò che è accaduto. Io non sono un dietrologo, questo dirò poi quali sono le mie perplessità, però questo non mi porta da sociologo a non vedere che i complotti della storia ci sono stati sempre, perché il potere non è trasparente e pulito, no? Il potere è doppio, il potere ha sempre un doppio fondo, può avere il volto pulito ma spesso tira fuori il volto sporco, e i poteri che sono sporchi per definizione, tirannie, dittature, ancora a maggior ragione esercitano o cercano di esercitare una capacità di indirizzo degli avvenimenti. Tanto più questo accade sul piano internazionale quando la situazione è come quella che mi ha ricordato prima, cioè l'Italia, il Mediterraneo, del mondo diviso in due, dove le due penisole iberica e balcanica erano sotto regimi totalitari, il fascismo in Spagna e Portogallo, il fascismo in Grecia, il regime di Tito nella parte superiore dei Balcani, e dove l'Italia rappresentava una democrazia a rischio di confine con il più forte partito comunista d'Occidente e retaggi notevoli degli apparati e della burocrazia fascista dentro lo Stato. Ignorare questo è assurdo, è questo antistorico, non è che uno poteva vedere la storia come complotto, ma non può non vedere che si agitano interessi consistenti sullo scenario internazionale che cercano di indirizzare in un modo o nell'altro tutto ciò che si presti a essere usato. Quindi io credo che questo sia un merito del libro, non è un cedimento alle visioni ideologiche, è un merito. Lo scenario è quello, i poteri politici possono pensare di usare i movimenti avversivi, perfino il democratico e socialista Mitterrand può pensare di usare in Francia, E questo spiega, giustamente viene ricordato, questo è uno dei capitoli di cui non si parla mai, spiega l'atteggiamento francese e delle autorità francesi nei confronti dei praticanti italiani in Francia, che non è soltanto dovuto al garantismo, ma è dovuto anche a una serie di valutazioni e di accordi che vengono stretti in quel doppio fondo della politica che a noi non è dato di vedere, che emerge soltanto se emerge dopo molto tempo. Allora bisogna esercitare il massimo di intelligenza. Perché? Perché dall'accettare questo livello di analisi allo sposare la dietrologia a tutti i costi, il passo, come capite, è breve, ma non bisogna compierlo. Bisogna avere la lucidità per capire che questo accade, che questi sono gli interessi in gioco, ci sono tanti interessi in gioco, dai regimi dell'est, a Israele, agli Stati Uniti, alle potenze europee che cercano di ricavare maggiore o minore spazio dentro questo quadro internazionale in ebollizione, e allo stesso tempo bisogna sapere che la storia presenta anche le casualità, ci sono anche fatti casuali nella storia, che non tutto ciò che non viene fatto indica la volontà di non farlo, a volte queste cose non si possono fare o ci sono degli elementi che consigliano di non farle, e che quindi tanti elementi di analisi che si distribuiscono nel tempo e che hanno una consistenza apparentemente più o meno piccola, però vengono usati come dettaglio per supportare delle grandi teorie, possono non trovare un conforto nella verità effettuale delle cose. Questo mi pare il secondo punto. Allora, dico, un merito è quello di sapere frugare dentro ciò che è stato oggetto di poca attenzione. Per esempio, il ruolo di Senzani nelle Brigate Rosse. Un ruolo, Senzani è un leader delle Brigate Rosse di cui che non si capisce quanto abbia collaborato con le Brigate Rosse, quanto abbia collaborato con gli apparati dello Stato, che comunque aveva entrature formidabili nel Ministero. La presenza di Senzani nel Ministero, con la sua capacità di essere interno al Ministero della Giustizia, a mio avviso, ma questa è una valutazione totalmente personale, spiega la sequenza di morti tra i magistrati collaboratori del Ministero della Giustizia. Così come sono convinto, scusa se lo aggiungo, questo non fa parte del curriculum, io sono convinto che qualche altro infiltrato delle nuove Brigate Rosse nelle trattative con il Ministero del Lavoro spieghi la sequenza di morti che ci sono stati negli ultimi 20 anni tra i consulenti del lavoro, tra le persone impegnate sull'economia del lavoro. Senzani è una figura inquietante, come ha avuto i finanziamenti, perché proprio lui, perché tanti sociologi non hanno accesso al Ministero della Giustizia, perché per alcuni sociologi i dati del Ministero della Giustizia sono proibiti, non si possono avere neanche per fare le ricerche scientificamente più accreditate, questo entra, guarda, riceve, scrive, viene finanziato, è un problema, ecco, capire che ruolo abbia avuto. E hai fatto benissimo, secondo me, a dedicargli un capitolo. Così come è giusto dedicare un capitolo all'Impero, a questa scuola, cosiddetta scuola di lingue a Parigi, che diventa il crocevia di terrorismi e le versioni internazionali. Io devo dire, scusate se faccio questa, ma sono indirettamente anche parte in causa e portatore di ricordi autobiografici, non so se nei documenti ufficiali risulti mai, ma io ricordo con chiarezza che mio padre sosteneva che alla fine bisognava andare a Parigi a cercare i responsabili di tutto, e io non ci credevo, perché conoscevo le origini delle versioni rossa, erano origini piantate nella storia dei movimenti della contestazione degli anni 60 e 70, e quindi il fatto che Parigi fosse il punto di riferimento per me era, cosa volete, il prodotto di un'analisi meno attenta alle vicende politiche o meno capace di stare alle vicende politiche da parte di un generale dei carabinieri che certo fa le indagini ma non sa quello che c'è nella politica quotidiana che si muove tra una manifestazione o un pranzo in osteria. Invece col passare del tempo mi sono convinto che lì si debba andare e che il ruolo che viene assegnato all'Imperium in questo libro dove non c'è soltanto la presenza del pericoloso, ma c'è anche la presenza dell'autonomia, anche questo è un fatto scomodo e scandaloso da dirsi, perché le Brigate Rosse non sono un corpo estraneo rispetto ai movimenti antagonisti di quegli anni, credo che sia importante, credo che sia importante. Ma questo poi getta luce di nuovo sulla perché la Francia, Parigi, i rapporti tra Parigi e un sistema di servizi segreti di varie nazioni. Il libro davvero è molto utile per questo, quindi oltre alla prima lettura c'è sicuramente bisogno di studiarselo per chi voglia affrontare con un po' di serietà sotto il profilo storico, metodologico queste vicende. Vengo ai punti in cui ho invece delle perplessità. Mi sembra che questa frattura operata tra la prima generazione di brigatisti e la seconda, come se la prima fosse formata da coloro che vengono dalla facoltà di sociologia di Trento, fondamentalmente scientifico come la certificazione richiamata nel testo, e poi arrivano quelli che non sappiamo chi sono. Questa divisione frattura non mi convince. Non mi convince perché basta riprendere le storie delle biografie dei terroristi, penso a quella di Giovanni Bianconi, che è molto bella, probabilmente da Inaudi, ma anche altre autobiografie, dove si capisce che c'è invece l'ingresso nella scelta del terrorismo da parte di giovani che vengono dai movimenti della contestazione e che vedono nel 76, nel compromesso storico, quasi lo strangolamento delle ipotesi di cambiamento politico che sono state coltivate lì. La storia di una maestra d'asilo, quella che mi ha colpito di più nelle biografie di Bianconi, di una maestra d'asilo generosissima che interpreta la nuova passione, il suo lavoro, che va a festeggiare a Torino la vittoria di Novelli sindaco e che dopo un anno e mezzo è dentro le Brigate Rosse. Questo non è una generazione nuova, infiltrata o irregimentata attraverso agenti dei servizi segreti, diversamente dal primo nucleo che è invece espressione di una genuina volontà di contestazione. Questa frattura io non ce la vedo. E d'altra parte, se si sospetta, secondo me anche quello è un episodio che andrebbe però troppo lungo, del favore di cui gode Moretti nell'occasione del 74, Moretti c'è già prima, e dunque se esiste un'infiltrazione, un condizionamento, esiste sin dall'inizio. Non credo che la scelta delle armi da parte delle Brigate Rosse sia dovuta agli infiltrati. Credo che ci sia una teoria della lotta armata che progressivamente si è fatta largo dentro il movimento, non soltanto dentro le Brigate Rosse, che naturalmente è usata da chi vuole usarla. Qui si capisce bene che c'è chi l'ha usata. Ecco, ma non vorrei la frattura in quei termini. Quando Franceschini dice mi sono reso conto di aver fatto tanti anni di galera perché c'erano gli infiltrati che ci spingevano ad alzare il tiro, dice in parte una verità, ma che ci fosse, che venisse vista la lotta armata come la forma più coerente di interpretazione di un'ideologia che era stata sposata, questo è vero secondo me. Allora il quadro sfuma, diventa secondo me necessario capire tutta la forza interna che ha questa esperienza politico-militare nella vicenda italiana e che infatti per la sconfitta che ha avuto secondo me non può tornare, bisogna contestualizzare, non può tornare, possono tornare 10 disperati o persone che non si rassegnano, ma non può tornare questa cosa qui, ci si possono mettere tutti i servizi segreti ma non torna. Questo è allora, secondo me, un elemento di verifica della qualità storicamente specifica delle armi. L'uso c'è e secondo me di quest'uso noi sappiamo ancora poco. C'è la vicenda Moro, c'è quello che racconti su Via Gradoli, questa quantità di appartamenti, di proprietà di fatto dei servizi segreti in mezzo ai quali Moretti va a scegliere la futura prigione di Moro. Queste sono cose che inquietano. Posso dire, per esempio, non soltanto i favori che vengono chiesti alle organizzazioni mafiose, ma la stessa domanda, Buscetta dice, un'entità ci chiese di uccidere il generale Dalla Chiesa e di fare rivendicare l'assassinio delle Brigate Rosse. Siamo nel 79, alla fine del 79. Chi lo chiede? Qual è questa entità che lo chiede? È evidente che è un'entità governativa o paragovernativa. Se lo vanno a chiedere a Buscetta in carcere, le Brigate Rosse non ci stanno perché pretendono di partecipare all'eventuale assassinio avendo almeno uno dei loro dentro il gruppo di fuoco. E siccome Cosa Nostra risponde di no, la cosa non si fa, ma viene chiesto alla mafia di farlo, che in quel momento non ha un interesse specifico a uccidere. E anche per questo, però qualcuno lo chiede, e le Brigate Rosse avrebbero dovuto rivendicare. L'insieme degli utilizzi, dunque, è impressionante. È impressionante. D'altra parte, questo è bene che lo sappia qualunque giovane avesse la fantasia di prendere le armi, sarà usato dai poteri. Questo non ci piove. Non ci piove che dopo sarà usato dai poteri più sporchi. Però ci sono anche delle cose che, da cui vorrei mettere in guardia, che sono passaggi che per me non sono. Cioè, ci starei proprio attento, anche, vedi che i problemi che mi pongo. Ma bisogna anche evitare di trasformare alcuni dettagli in qualcosa che può spiegarci di più di quello che spiegano. Che Moretti vada a Catania nel 74 è assolutamente irrilevante dal punto di vista dei suoi possibili rapporti con le organizzazioni mafiose, le cecità di mafia. Ma la mafia a Catania comincia a respirarsi alla fine degli anni 70. Nel 74 non è città di mafia. Se ci è andato ha incontrato altro che clan mafioso. Dal punto di vista delle capacità di condizionare, ho appena detto, il tentativo di condizionare c'è, ma quanti tentativi sono stati fatti con le Brigate Rosse? Qui le Brigate Rosse rispondono di no. Allora anche questa totale permeabilità non mi sembra che ci sia. Più volte dai servizi segreti israeliani, curioso poi che si siano falsi per entrare in contatto con le Brigate Rosse di uno dei più noti sociologi di oggi. Io quando l'ho letto sono balzato sulla sedia, stupefacente. Allora capisco anche magari perché abbia tanta possibilità di accesso ai mezzi di informazione diversamente dai normali sociologi che studiano in università. Dicono di no a Buscetta, dicono di no in tante occasioni. Allora, non sono una struttura permeabile, ecco, la seconda generazione che è fatta di infiltrati. È una storia, secondo me, un po' diversa, che va dal punto di vista scientifico valutata e apprezzata scientificamente, non moralmente, per quello che è, e questo ci aiuta, ecco, ci aiuta. Quindi io terrei quel confine prezioso sempre in vista. I complotti esistono, l'utilizzo esiste, ma non tutto ciò che accade in virtù di un utilizzo o accade in virtù di un complotto. Siccome però i fatti ce li dobbiamo scoprire un po' per volta nel giro dei decenni, è facile che siamo indotti a cadere in tentazione.